658. Budino di semolino e conserve. Latte mezzo litro, semolino grammi 130, zucchero grammi 70, burro grammi 15, uova numero 2, una pressa di sale, odore di scorza di limone, diverse conserve di frutta. Cuocete il semolino nel latte. Aggiungete lo zucchero e il burro quando è bollente. L'odore e il sale quando lo ritirate dal fuoco. Scocciate le uova quando è ancora caldo e mescolate ben bene. Preparate uno stampo da budino, liscio o lavorato, unto col burro e cosparso di pangrattato. E versateci a poco per volta il composto di accio, rifiorendolo via via di conserve a pezzetti o a cucchiaini, secondo che esse siano liquide o sode. Però avvertite che non vadano a toccare le pareti dello stampo, perché vi si attaccherebbero, e che non siano troppo in abbondanza, che stuccherebbero. Servitelo caldo dopo averlo cotto nel fornello. Le conserve che a mio gusto più si prestano per questo dolce sono quelle di lampone e di cotogne, ma possono andare anche quelle di albicocche, di ribes e di pesche. Per 8-10 persone raddoppiate la dose.